per le corbellerie che dirò. Infatti mi sono messo paura quando la gentile dottoressa Trevisan ha detto questo metteremo sul web la sua presentazione. Ho paura, dovrò stare attento a ciò che dirò. Ecco, volevo fare alcune considerazioni, anche che riallacciandomi un po' a quello che ha detto anche la signora Trevisan, su la letteratura in lingua italiana nella nostra provincia. Ecco, si parla molto, talvolta a proposito, talvolta a sproposito, del cosiddetto disagio degli italiani. È una cosa che esiste, e però gran parte di questo disagio, a parte alcune norme giuridiche che sia io che Eugen consideriamo mostruose, che regolano la vita politica in questa provincia, e abbiamo fatto qualche cosa per combatterle, uno sciopero della fame, mia moglie si è lamentata che è finita troppo presto, infatti vedete il mio fisico che non è tanto sciopero della fame, mentre Eugen è arrivato, io so perché ho seguito tutta la faccenda per lo sciopero della fame, è arrivato proprio al limite di un ricovero in ospedale. E, perché Eugen sembra così una persona tranquilla, riservata, modesta, tutto solo dedito ai suoi studi, ai suoi libri, alle sue critiche letterarie, invece ha un carattere d'acciaio e si è visto in quell'occasione lì. Stava per diventare il piccolo Gandhi dell'Alto Adige. Ecco, Massimo Gandini. è il Gandhi. E quindi Eugen, ecco, a parte, dicevo, queste aberrazioni giuridiche per cui tutto qua deve essere diviso in chiave etnica, dobbiamo avere per forza un'etichetta, tornare alle kantiane categorie, anche gente che non lo è assolutamente, perché Eugen, per esempio, viene da una famiglia mistilingue, da cultura mistilingue, e non può dichiararsi, secondo le leggi che c'è nella nostra provincia, non può dichiararsi tali. Poi non voglio parlare, perché qui non è un raduno politico, ma del fatto che se si va fuori di qua e si racconta che i posti di lavoro non vengono dati in base alla capacità e alla voglia di lavorare, ma vengono date in base all'etnia, c'è cioè questa etnia oltretutto presunta di appartenenza, la gente poi si mette a ridere, invece qua non ride nessuno, ci sarebbe da piangere, non da ridere. Ecco, l'etnia presunta di appartenenza, lo dico subito perché quando c'è stato l'ultimo censimento, lo posso dire perché ho violato la legge, ma non c'è nessuna punizione per chi la viola in questa maniera. C'è stato censimento per dichiararsi, io sono italiano, sono nato ad Albenga, in provincia di Savona, sono ligure, no? Sono un compaesano di Mazzini e di Garibaldi, quindi voglio dire più di, io ho anche quelle idee là, quindi più italiano di me non se ne trovano molti e quando c'è stato censimento e c'è la dichiarazione etnica era chi l'ha fatta lo saprà c'era un foglio su carta copiativa io ho strappato il foglio su quello anonimo ho dichiarato la verità che appartengo al gruppo linguistico italiano non etnico linguistico perché etnico è una cosa biologica. E quando qualche scienziato riuscirà a dimostrarmi, ma è difficile, neanche Rosenberg o dottor Mengele ci riuscirebbero, che biologicamente gli italiani e i tedeschi sono diversi, allora si potrà parlare di gruppo etnico italiano, gruppo etnico tedesco. Finché questo non si potrà dimostrare e non si potrà mai dimostrare, ho fatto anche degli esami, sono farmacista, ho fatto anche degli esami di biologia e di genetica, finché non si potrà dimostrare che gli italiani e i tedeschi sono biologicamente diversi, non si potrà parlare di gruppo etnico italiano o gruppo etnico tedesco. Beh, ho dichiarato la verità, invece su quello che va a commissariato del governo o dove va, ho dichiarato la mia appartenenza al gruppo linguistico tedesco, quindi se io dovessi fare un concorso, questo tedesco nato ad Albenga, che non ha nessuna goccia di sangue germanico, neanche c'è chissà forse secoli fa, ma sicuramente non in generazioni recenti, ecco questo qua, se ci fosse un concorso riservato al gruppo linguistico tedesco, questo qua magari potrebbe vincere e portare via il posto di lavoro a un tedesco vero. Ecco, a queste aberrazioni porta questa gestione dell'autonomia in Alto Adige. Contro queste aberrazioni io e Eugen ci siamo battuti con molta forza. Ecco, torniamo al libro. Il disagio però non deriva solo da queste norme mostruose, ma deriva anche da da problemi in aree psicologici di adattamento. E in questo senso la nascita di una letteratura in lingua italiana in questa provincia può servire a combattere il cosiddetto disagio degli italiani. Quindi io sono veramente contento ogni qualvolta esce un libro di un narratore o di un poeta locale in lingua italiana. La cultura appartiene a tutta l'umanità, è inutile dirlo, non mettiamoci a etichettare, però è chiaro che la cultura non nasce dal nulla, non è un'astrazione, la cultura è una cosa che si basa sulla realtà concreta. Ibsen, il mio drammaturgo preferito, sono stato anche nella casa dove è vissuto, è morto ad Oslo, allora si chiamava Christiania, non è nato lì, è nato una cittadina vicina della Norvegia meridionale, ma non lì. Ecco, Ibsen è appartenuto alla tutta l'umanità, è un classico della letteratura, è apprezzato da tutti, come tutti i classici trasmette valori universali, ma Ibsen, se fosse stato spagnolo invece del norvegese, non avrebbe scritto le sue opere in maniera molto molto diversa. Giuseppe Verdi, inutile dire, Giuseppe Verdi appartiene a tutta l'umanità. Ah, lo sapete, io sono stato consigliere comunale a Bolzano, lo sapete perché il nuovo teatro comunale non si può chiamare Giuseppe, non si può intitolare Giuseppe Verdi, pur essendo in Piazza Verdi, perché a detta di qualcheduno, non mettetevi a ridere, perché è vero, l'ho sentita con le mie orecchie, i tedeschi si offenderebbero. Andate su internet a vedere quanti gruppi di ammiratori di Verdi ci sono in Germania e in Austria e poi ditemi se i tedeschi si offendono. Giuseppe Verdi, se non fosse nato a Busseto, sì, se non fosse nato a Busseto avrebbe scritto le sue opere in maniera molto diversa, così Richard Wagner l'avrebbe scritto diverso se fosse stato tedesco. Quindi la cultura appartiene a tutta l'umanità ed è giusto che si diffonda per tutta l'umanità, non bisogna essere ottusamente provinciali o sciovinisti, però la cultura si basa su delle realtà concrete, delle realtà storiche, delle realtà materiali, e per cui è per questo che esiste una letteratura italiana, una letteratura tedesca, una letteratura russa, eccetera. E bisogna apprezzare le culture, le letterature, le arti di tutti i popoli, ma bisogna soprattutto apprezzare e stimare la propria. Ecco, a me se viene un italiano, un critico letterario italiano, e mi dice che conosce a memoria tutta l'opera, ha scritto i commenti, chi usa tutta l'opera di quel grande autore siberiano, mongolo, e poi mi ha detto che non ha letto neanche un rigo di Carducci, beh, io quella persona non lo stimo, perché bisogna prima giustamente conoscere la propria, e poi la cultura ti deve dare quell'apertura mentale che è per apprezzare le culture altrui. Guai se così non fosse. Purtroppo c'è la moda nel nostro paese di sputarci addosso, di offenderci, di autoflagellarci. Pochi giorni fa, una lettera, Corriere della Sera, c'è la rubrica delle lettere molto interessante perché la tiene l'ex ambasciatore Sergio Romano, una mente molto molto lucida, e una signora così scriveva una lettera, è stato ambasciatore in Russia Sergio Romano, quindi conosce molto bene la realtà russa, sovietica prima e Russia e russa dopo. E siccome il partito di Putin, che non so come si chiama perché non è che mi interesso più di tanto di politica russa, ha fondato un'organizzazione giovanile che diffonde opuscoletti e libretti che esaltano tutta la grandezza della storia russa, da Caterina, Pietro Grande, non so, e così, e questa signora mi pareva fosse spaventata perché dice: non le sembra che questi giovani assomiglino un po' alla Hitlerjugend, ai Balilla, così, ma dice, questi, ha detto Sergio Romano, non è tanto questo, l'unica paura è che i giovani possano venire strumentalizzati, non avendo ancora sviluppato una capacità, una forte capacità critica, magari bevono delle idee sbagliate, però non c'è nulla di male nel vantare le grandezze della propria storia. Siamo solo noi che siamo quasi obbligati a parlare male del risorgimento, delle grandezze passate, della nostra patria. All'estero così non è, infatti non deve essere così. Adesso ne parlavo prima con l'amico Franco Latino, solo un accenno, c'è stato il bicentenario di Garibaldi, a proposito, scusate la propaganda che faccio, qua tra il 16 e il 18 novembre si terrà un congresso internazionale qua a Bolzano su Garibaldi. Garibaldi, l'identità nizzarda si chiama, si intitola il congresso, ci saranno relatori internazionali che verranno, alcuni italiani, altri verranno da Nizza, e organizzato dall'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, che io indegnamente rappresento, dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo e dalla società Dante Alighieri, che si è presa, la benemerita società Dante Alighieri, che si è presa l'incarico di tutta la parte logistica che è molto complicata. Beh, in questo bicentenario garibaldino, ma anche ieri un uomo politico ha detto Garibaldi era un balordo che ci ha resi schiavi, no? E proprio ieri a Venezia è così. E, ecco, da noi c'è questa abitudine di denigrare le grandezze. Le grandezze nostrane, no? Poi dopo andiamo a scoprire chissà dove, in fondo al mondo, quel grande autore eccezionale, poi si scopre che non ha fatto altro che magari tradurre nella sua lingua degli autori dei nostri classici. Ecco, è bene che si sviluppi una, si sviluppi, si è già sviluppata, ma si fortifichi una letteratura in lingua italiana in Alto Adige anche per combattere questo disagio. Una grandissima funzione, una funzione molto importante, ha quindi questa biblioteca. Finalmente anche noi abbiamo una biblioteca provinciale in lingua italiana. Io chiedo scusa alla dottoressa Trevisan, sono uno di quelli che l'ha frequentata meno, cercherò di fare ammenda e quanto prima le farò avere le pubblicazioni che ha fatto il Comitato di Bolzano dell'Istituto per la Storia del Sorgimento, così potrà metterle in biblioteca. Ecco, certamente Eugen Calasso, provenendo da una cultura mistilingue, ha scelto di scrivere comunque in italiano perché lui ha frequentato il liceo classico in lingua italiana. E abbiamo un'altra cosa in comune, oltre alla grande amicizia. Siamo stati tutti e due allievi di un grande, una persona eccezionale, ve lo potrà confermare il professor Nollet qua presente, che è stato preside del liceo classico. Noi siamo allievi del professor Moggio. Professor Moggio, una persona, non è professore, è veramente un maestro, possiamo definirlo, che ci ha insegnato, ecco, quello ci ha aperto veramente le menti e ci ha fatto capire in profondità i valori della cultura classica, che cosa significano per la storia occidentale e per la civiltà occidentale in genere, i valori della cultura classica. E quando si riconoscono due allievi due ex allievi di Moggio, io sono il più giovane tra gli allievi di Moggio, e ahimè, ho già compiuto 50 anni, per dire, quando si incontrano due allievi di Moggio si riconoscono subito e trovano ad avere qualche cosa in comune, al di là delle differenze di idee politiche, al di là delle differenze che ci possono essere, no? Noi ex allievi di Moggio siamo peggio della massoneria in questo senso, no? Ci riconosciamo subito e ci sentiamo, a dispetto delle idee politiche che possono essere anche le più differenti dall'estrema destra all'estrema sinistra, ci sentiamo come fratelli, veramente. Un grande merito nel difendere e diffondere la cultura in lingua italiana in Alto Adige, devo dirlo, la casa editrice Latmag, del qui presente Franco Latino, che con la sua collana di libri ha dato spazio a tanti autori che magari non avrebbero trovato editore, no? Perché purtroppo in questo nostro bel paese tanti scrivono ma nessuno legge più, no? E questa si è lamentata anche la dottoressa Trevisan di questo. Bisognerebbe insegnare di nuovo alla gente, giovani soprattutto, a prendere un libro in mano e divulgare, questo è anche un sogno di Moggio, anche tra la gente, tra tutte le classi sociali, la cultura. Mi è venuta in mente, a proposito di questo degrado della cultura, un'intervista fatta alcuni anni fa oramai a una persona che certamente non si può portare ad esempio di grande portatore di cultura, però l'umanità evidentemente la conosce, mi riferisco a Mike Bongiorno. Chiedevano a Mike Bongiorno, che ha diretto per tanti anni alla RAI e anche in televisioni private molti quiz tipo Lascio raddoppia, Rischia tutto, quiz che hanno fatto epoca, in cui le domande erano soprattutto di cultura, anzi esclusivamente di cultura, e uno vinceva i milioni dell'epoca in base facendo sfoggio della propria cultura, rispondendo a domande molto difficili. Invece adesso si vincono i milioni rispondendo chi è la moglie del tale cantante, chi è l'amante del tale jazzista, dove ha fatto la cubista, la tale, cioè, si vincono i milioni così. E gli hanno chiesto a Mike Bongiorno appunto come mai non ci sono più quiz come Lascio raddoppia, Rischia tutto, dove basati sulla cultura. E Mike Bongiorno ha risposto: non è perché, non è solo perché non troviamo più gente in grado di rispondere a determinate domande, è il fatto che non riusciamo più a trovare gente che sia in grado di porle. Ecco, questo è vero, questo è vero, questo è molto molto triste. Quindi tutto quello che si fa per portare portare avanti, difendere, diffondere la cultura è meritorio, quindi un ringraziamento anche a Franco Latino che tanto ha fatto, ecco, devo dire la verità. Eugen Galasso più o meno lo conoscete tutti, non ha bisogno di molte presentazioni come persona, ha scritto un sacco di libri, ha scritto un sacco di articoli, soprattutto di critica letteraria, poi dopo articoli profondi, molti pubblicati dalla rivista Il Cristallo, diretta dal professor Nolet, appunto, anche una rivista che porta avanti discorsi culturali piuttosto solidi in questa provincia, è l'unica, oramai è rimasta l'unica rivista culturale in lingua italiana in provincia di Bolzano, guai se dovesse mancare anche quella. E poi dopo ha scritto anche articoli, ha scritto articoli per quotidiano, articoli da terza pagina, poi tanti anni fa critiche cinematografiche, vero? Poi critiche teatrali, vero? Però adesso più che altro articoli cosiddetti da terza pagina, articoli di cultura, quindi di molte presentazioni non ha bisogno. Adesso questo libro qua, Iceberg, ha uno sottotitolo piuttosto strano, Racconti fantasmatici. Racconti fantasmatici perché ci sono i fantasmi, riportati fantasmi della sua memoria, ecco, della sua memoria, perché ogni scrittore anche quando scrive romanzi magari di fantasia, è un po' autobiografico, se non altro perché riporta anche nel racconto di fantasia magari delle esperienze spirituali, perlomeno morali o cerebrali, che ha vissuto. Invece si ritrovano dei personaggi ex docenti del liceo o maestri che lui ha conosciuto, personaggi, autori che lui ha letto e che ha letto e prediletto, come il misconosciuto Howard Phillips Lovecraft, uno scrittore americano scomparso nel 1938 di racconti del terrore, che è stato poi rivalutato solo negli ultimi decenni. E è un po', cioè, è come un Edgar Allan Poe più la fantascienza, no? Però dal punto di vista letterario secondo me ha lo stesso valore di Edgar Allan Poe. Poi è citato anche, ecco, Eugen Galasso non ha mai nascosto le sue idee politiche di sinistra, però è una persona intelligente e sa trovare le cose buone dovunque ci siano, quindi conosce molto bene anche la cultura di destra, gli autori di destra, ne ha scritto sia quelli italiani, da quelli classici tipo Alfredo Oriani, ammesso che Alfredo Oriani si possa definire di destra, comunque fa parte del patrimonio culturale della destra, a torto o a ragione, e poi anche della destra straniera, e un autore che a lui ne abbiamo parlato diverse volte, un autore un po' strano, è lo scrittore politico americano Barry Goldwater, che scrisse alcuni libri tradotti anche in italiano, il conservatorismo, che non ha niente a che vedere con l'attuale pensiero neoconservatore, neocon americano, che quelli che vogliono esportare la zia a suono di bombe e a suono di massacri. A un certo punto non so che differenza, non so se ha fatto, io non sono un difensore di Saddam Hussein, ci mancherebbe, però non so se ha fatto più morti Saddam Hussein durante la sua dittatura o quelli che hanno voluto portare in Iraq la democrazia a suon di cannonate, no? Ecco, un attimo do la parola. Solo un attimo, mi ricollego, abbiamo queste passioni comuni, Barry Goldwater e anche, mi sia consentito, Juan Domingo Perón, grandissimo presidente argentino, cui la CIA, e questo è in Eduardo Galeano, La memoria del fuego, le memorie del fuoco, metteva in casa i libri pornografici, in casa e in studio i libri pornografici. Ecco, scusate l'espressione, non politically correct. E un'altra cosa, ecco, di recente mi ricollego una cosa che mi ha fatto enormemente godere, veramente, insomma, in agosto, il senatore Bocchino di Alleanza Nazionale, persona un po' così di messa come chi vi parla, ha avuto però un soprassalto, ha detto, dice, Reagan, qualunque cosa sia stato, aveva detto il Sir Barry Goldwater, che il cui programma sociale era molto più avanzato di quello del suo concorrente Lyndon By Johnson, me lo insegna l'amico Achille. E tra l'altro, ecco, mentre oggi purtroppo, diceva, dietro Berlusconi c'è la signora Brambilla. Non ho finito. Vabbè, comunque, tornando a Barry Goldwater, appunto Barry Goldwater con un conservatorismo diverso appunto da quello dei neocon o teocon attuali, e rappresentò per un certo periodo, per un certo successo, i suoi libri vennero tradotti anche in italiano, la destra americana, la vera destra, diciamo, americana, però una destra aperta anche al sociale, come ha ricordato Eugen. E Barry Goldwater fu un uomo sfortunato, perché ebbe la sfortuna, tra virgolette, non voglio essere frainteso, di essere ebreo. E allora, come oggi, è di moda in America, così, a parte che in America non dovete pensare di trovare tanta gente che si interessa di politica come qua, che fanno i commenti. Comunque è di moda che la comunità ebraica, la maggioranza della comunità ebraica, sia, secondo i canoni americani ovviamente, di sinistra. Quindi Barry Goldwater venne diffamato, venne con una politica della delegittimazione, amplificando cose magari non vere, leggende, cose assurde. Barry Goldwater venne accusato di ogni infamia, poi la sua stella declinò. Ecco, la sua colpa era stata essere un ebreo americano che aveva scelto la destra politica. E le sue opere vennero in Italia presentate, recensite e presentate da un autore, ecco la stranezza della cosa, un autore che, secondo la vulgata corrente, è un autore maledetto, perché è accusato un autore antisemita, Julius Evola, che in effetti va al tempo delle nefande leggi razziali fu antisemita, ma poi dopo cambiò idea. Anche Giorgio Bocca scrisse delle cose molto peggiori di quelle che scrisse Evola nei confronti degli ebrei, eppure è stimato, è considerato un faro di progressismo, eccetera eccetera. Io gli ho fatto una volta un bello scherzo, penso che mi odierà per tutto il resto dei suoi giorni, e sul quotidiano L'Indipendente, che ora non esce più, feci pubblicare dall'allora direttore Vittorio Feltri l'articolo che Giorgio Bocca scrisse per recensire un libro infame, I protocolli dei Savi di Sion, che è un libro creato a tavolino dalla polizia segreta zarista nel 1905 per creare, fomentare una campagna antisemita in Russia, nella Russia di allora. E questo libro poi è stato riscoperto, non ebbe molto successo lì per lì, venne riscoperto dai gruppi dell'estrema destra tedesca nella Repubblica di Weimar, poi venne tradotto e diffuso in tutto il mondo, e purtroppo il libro è anche responsabile di tanti pregiudizi antisemiti, tra i più stupidi e tra i meno fondati, diciamo così. E Giorgio Bocca invece era un grande esaltatore di questa teoria cospirativa della storia, poi presa molto bene in giro dal pendolo di Foucault di Umberto Eco, e scrisse proprio nel 1943, quando in tutta Europa, in Italia, no per fortuna, ma in tutta Europa, i treni si riempivano di ebrei che raggiungevano a me le località di villeggiatura chiamate Auschwitz, Dachau, eccetera, eccetera, Giorgio Bocca scriveva delle infamie del genere. Pure Giorgio Bocca è considerato un illuminato, e Julius Evola ancora non si può nominare, non è, come si dice in tedesco, Salons Fake, perché se tu dici che sei un lettore di Evola sei subito etichettato come nazista, e così. Comunque Barry Goldwater. E allora possiamo essere etichettati così. Ecco, ecco, io adesso ho già detto abbastanza stupidaggini, spero che loro siano rimasti contenti, spero che sia rimasto contento l'autore di questa mia presentazione. Lo ringrazio per tutto quello che Eugen ha fatto, sta facendo e farà per difendere e diffondere i valori della cultura. Grazie Eugen, e lasciamo la parola agli attori, ai lettori, per leggere i racconti. Posso? Prego. Accennavo solo alla presenza degli amici musicisti, appunto di musica, teatro e tradizione popolare, così si chiama l'associazione, e precisamente Francesca Premier, io preferisco dire Premier, la francese, mi scuso, e Alessandro D'Alessandro. E adesso non so come... ecco, suonate voi o... Chiusura? Sì. Allora possiamo cominciare. Scusatemi, ma qui abbiamo solo... Scusami, abbiamo solo il microfono. Anche il mio sta con noi, dai. Così... Ma io solo per... No, dopo devi... Un c'è mica più Baldelli! Cosa crede lei? Questo è il titolo del primo... racconto che leggeremo. Questa era la risposta del segretario di pedagogia che rispondeva alla madre di uno studente, giovane ma già laureato, alla sua seconda, anzi seconda e mezza laurea, era già laureato in filosofia. Aveva superato il primo ciclo di studi teologici e un po' di più, era professore supplente e critico cinematografico, perso in uno studio matto e disperatissimo, che tra l'altro gli sarebbe costata la vista e non solo. Spaventatissima dalla risposta, la signora di origini austriache, che sapeva bene l'italiano, ma ritornò a... dopo aver comunque iscritto il figlio alla facoltà. Indirizzo filmologico, in ogni caso, nonostante le dritte negative del nostro... anche se poi il figlio si sarebbe poi laureato in teoria e tecnica delle comunicazioni di massa, ma con il professor Pio Baldelli, esimio cattedratico fiorentino, che comunque all'epoca in cui il T l'aveva così squadrato, è un eufemismo però, era ancora anche docente di storia e teoria del cinema, oltre che della suddetta disciplina. Le sue pubblicazioni... erano eccelse. Solo un T poteva permettersi, forse per avversione politica, forse per altri motivi, che qui non interessa sindacare, di metterne in dubbio il valore. Ma a noi qui interessa il T onesto impiegato, senza infamia né lodo, padre Dante un guastamai, maremma bua. Schivo, anche se a tratti un po' sguaiato. Nulla a che vedere tuttavia con il Vampa o altri personaggi della più triste cronaca fiorentina. Si dilettava di musica, suonava il, ma qualcuno dice il clavicordo, ma i ricordi si perdono. Nel 1980 il nostro non era comunque già più proprio un giovanotto. Giocava a bocce, qualcuno dice a flipper, ma un mi ricordo... sostiene con tono strascicato, sognante, un'anziana signora, forse segretamente una fiamma del nostro. Per il resto, nessuno lo vedeva o sentiva, né in famiglia né altrove. Certo in famiglia c'era, ma lasciava vivere. Il fatto è che il T coltivava piantine non allucinogene. «No, io di queste cose non ne voglio sapere, maremma maiala!» Ma... sicuramente velenose, e allevava animaletti la cui natura e definizione tassonomica non è dato chiarire. Altrettanto vale però per le piantine. Ma quale fosse lo scopo di questa sua attività, neanche il Bovioli, il suo migliore amico, sa raccontare nulla. Un era cattivo, l'era un po' grullo, e indica sempre la testa. Certo è, e questo lo si può dire, come si suol dire, senza tema di smentita, che nelle vicinanze della sua abitazione, anzi, diciamo meglio, a circa 70 metri dalla stessa, vennero trovate in tempi diversi le salme di sette giovani donne, tutte rigorosamente in minigonna e senza calze. I fatti devono essere avvenuti sempre d'estate, nel tenero primo autunno fiorentino o a primavera inoltrata. Cause della morte sconosciute, sicuramente non violente, Per alcuni si ventilò il sospetto di avvelenamento, presto però archiviato per insufficienza di prove. Lo afferma anche il dottor Calabrò della questura. Non si trattava di prostitute, erano operaie, impiegate, studentesse, una maestra d'asilo. Forse il fanatismo religioso, forse la frustrazione sessuale di una persona in età, che ansabe, ma comunque il mistero sul caso T si faceva sempre più fitto, fino a rimanerlo e a disperdersi. Anche perché T fu visto allontanarsi circa 7 anni dopo il fatto, non il fattaccio però, narrato all'inizio per destinazione ignota. Thailandia, dice qualcuno. Ma. Insomma, oltre ai misteri noti, mostro di Firenze, Ciccicicci il mostro di Scandicci e quant'altro, ci sono quelli ignoti e archiviati, che per la maggior parte delle persone non arrivano mai neppure alle soglie della coscienza. Certo che a ripensarci, forse era questo il motivo del suo odio feroce per il professor Baldelli, che le grazie dell'altro sesso non le aveva mai disprezzate. E come fargliene una colpa? E ora una poesia datata 12 febbraio 2003. Ma guarda, questi giorni infranti, atti di paura e di nuove madonne pellegrine, d'apocalissi a buon mercato, forse di grande timore, senz'altro di atroci minacce. Gennaio 2003. Molti profeti sventura, ancora più di ventura, a cantar nuove assurde, magnifiche sorti e progressive. Death in the morning, morte al mattino. TV sempre accesa, moglie a casa. Non era bello da vedere Fulvio Accorsi. Naso bitorzoluto, 60 anni malportati, pancia incipiente e altre caratteristiche da soggetto paralombrosiano. E loro ci tenevano al commissariato. Aveva da liquidare altri 2 personaggi. E sempre la TV che andava e gli rompeva il pensamento. Ma sua moglie a modo suo forse l'amava. Allora uno sguardo alla TV lo diede. Passavano un film strano, di science fiction e un po' anche horror. Forse una contaminazione dei 2 generi, ma a questa dichiarazione Accorsi certo non si sarebbe spinto. Si vedevano gli eroi su un pianeta imploso dai 3 soli combattere contro mostri orrendi e proliferanti. Un film de paura, insomma, con tanto di didascalie dal forse coreano. E Mr. Fulvio, dimentico di tutto, anche di essere in missione, continuava a guardare. La scena clou dell'eroina che si liberava con sforzo erculeo o da amazzone dal tendaggio orrendo lo fece sobbalzare. Pensieri, turbini di brainstorm, otras cosas. Uscì dopo un rapido bacio a Safam, poi si apprestò a compiere la missione. Pronta la pinza, pronto l'apparecchio per le scosse elettriche, pronto... No, il revolver non c'era, ma avrebbe dovuto esserci, pena mancanza di protezione. Il fatto è che il suddetto, come scriverebbe un brigadiere nel rapporto, a Oslo non giunse mai. Cadde in treno, travolto da una tubatura che stava per scoppiare in bagno, anzi in magazzino. Ulteriori particolari non sono noti, salvo i pochi accertamenti meramente balistici. Cause e movente eventuale, ignoti. Morte accidentale? Forse, comunque lo si sospetta. Una poesia dal titolo M. Non caste, sai, nel letto di Procuste, recuperi i ricordi furenti de fura. Uno più grande ci diceva, e noi inetti a rimembrar nomi, a cogliere frammenti, decriptare attese, senza presagio di grandezza. E ancora una poesia datata 16 novembre 1995. E come un vecchio signore, poco assennato, chiuso al mondo, aperto, incorniciando sensazioni. Luci. Riluceva, sì, in certi momenti, non fisicamente, anzi, no, emanava qualcosa, quella che in inglese, apre Stephen King in particolare, si chiama shining, gli occhi, la luccicanza, appunto, anche gli angoli della bocca, per dire. Era sempre stato malaticcio, gracile, intollerante a ogni richiamo della materia, dei sensi. Almeno aveva cercato d'esserlo. Rifuggiva il sesso, almeno nella maniera meccanica consueta della società chiavante, Wilhelm Reich. Rifuggiva feste, discottini, festini, come si chiamavano un tempo. Era convinto d'essere origine nobile, di spirito però, dell'araldica se ne strafotteva. Alla banalità rispondeva con silenzio sordo, offensivo, almeno per i suoi interlocutori. Aveva paura e orrore del mondo. «Mais j'ai mal d'être moi». Il verso brilliano valeva. Ma no, in realtà era proprio il mondo di cui aveva sacro, cioè anche nel senso latino del sacer, sacra aurifames virgiliana, del dannato, che nel francese è parzialmente ripreso orrore. Cristiano eretico, non massone, diceva un po' per celia, abbastanza di frequente, «Il mio regno non è di questo mondo». Fecero analisi su analisi, fin da quando era piccolo. A parte i disturbi di tipo medico abbastanza seri, nulla di particolare da rilevare, finché la metamedicina non lo sottopose alla metapsicoscopia. «Non è di questo mondo», fu il laconico responso. «Forse proviene dai grandi antichi», disse un metamedico, seguace di Lovecraft o almeno suo accanito lettore. «Esimio collega, forse no, non gli attribuirei tratti particolarmente malvagi. Credo sia uno degli pneumatici. Rilegga i grandi testi gnostici». Una poesia del 22 marzo 2003. Au printemps 2003, primavera 2003. Orrore, inizio primavera. Perduti i brandelli, speranza. Pochi giorni distruggono tutto. Migliaia, voglie d'altri mondi, insulse volontà, poteri. Fremono incertezze. Poi subito infrante. Una poesia intitolata Et Et. E vedo minareti inconsci, bucce d'aceto incongrue, insistenti fantasmi di frammenti. Alberto Sordi. Sordi. Eh sì, Albertone. Vedevo lo striscione in TV, mezzo ammalato. Ieri un americano a Roma, oggi un romano in cielo. E anche altro. Stavolta ci hai fatto piagne. E dopo due giorni più o meno di pianti, mi ricordavo di tante cose. Ordine sparso, come naturale, in una persona che crede forse un po' situazionisticamente al caos creativo. Quindi prepararsi. Il Sordi che a fine anni 60, inizio anni 70, da boccia intellettualizzato e ante, avevo un po' messo da parte, sull'onda forse di critici un po' spocchiosi, preferendo Buñuel, Fellini e altro, ignorando fra l'altro che Albertone aveva recitato due volte con Fellini. Ma anche le segrete frequentazioni del fremito romanesco, contagioso, inviso a mia mamma, ma anche al leader massimo leghista, che però a differenza di Speroni Sordi oggi rivaluta. Puro fiuto di da ministro? Fremito da cui ero stato contagiato a casa da un amico di papà e caro amico mio e anche di mia moglie tuttora, il dottor Riccardo T. Con un altro caro amico, Renzo, avevamo costituito segretamente, cioè non costituito in vero, una sorta di club Alberto Sordi, che a Bolzano sicuramente non ha avuto, ha o avrà, credo da non più bolzanino, nessun futuro. Amici, conoscenti sudtirolesi, sicuramente, sempre gli si parli di Sordi, direbbero Den Wolschen kenninet! Oppure Sel morinet! E simili. Evocativo, un po', ma mai tanto rozzo, il personaggio tipo di Sordi, che invece si era calato in tanti ruoli, dando sempre un prisma straordinario di caratterizzazioni, sfumature, mimiche facciali, gestualità, certo molto esagerate per i pacati, più alta percentuale di suicidi su tirolesi altoatesini. E poi, sempre non in ordine, avevo fatto anche il critico cinematografico per quasi 15 anni, seppure in età comunque molto giovanile. In quelle occasioni recensioni, che cosa mai avrò scritto? Fregnacce, credo, direbbe lui. Ma forse qualcosa avevo colto, ma poco, credo. Certo mai cedendo a disprezzi da critico militante alla Nanni Moretti. Appartenendo per motivi generazionali al tempo morettiano, non avevo mai condiviso certe liquidazioni, forse poi anche fraintese. Comunque sia, mi sorprendo. Da quasi vecchio, accanto alla non saggezza, non l'avrò mai ormai, credo. Mi hanno dato una spinta ulteriore, in vero, alla commozione, alla capacità di commuovermi. E mi ero sorpreso anni fa a piangere sulla storia del vetturino, del cavallo, in uno degli ultimi film sordiani, con Albertone anche dietro la macchina da presa. Poi, frammenti di tutto. Leggevo sul Corrierone, tale Livio Labor lo chiamava mille anni fa il Corriere della Serva, e avevo applaudito, di un terreno regalato da Albertone in beneficenza all'Opus Dei, movimento ecclesiale che mi fa un po' orrore, ma tant'è. Sarà anche morto couvert de prêtre, Albertone. Ma se lo voleva lui, che diritto ho io, cristianoide, definizione appioppatami da qualcuno o autoprodotta, non so, non ricordo, come mafiosi. Solo perché nutrito, impregnato di Jacques Brel, da cui traggo la citazione, di criticarlo? Poi, bene o male, non è così per quasi tutti? Ricordi tristi, vedo, ma anche matte risate, sicuramente più intense di quelle fatte con i pure amati comici toscani, forse troppo di testa, escluso Benigni, direi. Il fatto è che Albertone sarà anche in cielo con tanti altri grandi, ma con la sua scomparsa si chiude un'epoca. Si sente il fiato della fine o quasi sul collo, inutile negarlo. Quantomeno si sente battere l'incessante orologio a pendolo, la clessidra si svuota e quant'altro. Ma poi si viene ancora di più, ancora una volta e forever, deprivati, spes ultima ratio, ma... Una poesia del 21 dicembre 2004. Noi slavi, anche un po' slavati, c'è chi vorrebbe impressione fortezza. Ha fatto il soldato? No, al caso piacendo. Noi, stranieri al mondo, ai brutti facitori di figli, ai cattoclerico troppo convinti, altri valori speriamo fuori dal mondo. Nel mondo. E con questo concludiamo questo piccolo saggio degli scritti di Eugen e ripassiamo la parola al professor Ragazzoni. No, non sono professore, non mi raccomando. Piano. Vabbè. Ringrazio gli amici che hanno letto molto bene sia i versi che la prosa. È una scelta così, per forza, non è che si potevano qua leggere.